Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Beppe Bertagnolli. Grappa, storia e tecnologia. Di Giovanni Savarese. Beppe Bertagnolli è a capo, insieme alla cugina Livia, della premiata distilleria discontinua a Bagnomaria G. Bertagnolli. Quarta generazione alla guida dell'azienda, un fatturato da 10 milioni di euro all'anno, sede in provincia di Trento, nella Piana Rotaliana. Fondata nel 1860 da Giulia de Kreuzenberg ed Edoardo Bertagnolli, l'azienda ha fornito grappa all'impero asburgico e ha attraversato due guerre. Siamo iscritti alla Camera di Commercio dal 1870, perciò siamo a pochissimi, siamo la seconda distilleria in Italia che può vantarsi di questo fatto, di essere iscritti dal 1870. Nasce chiaramente da un'azienda agricola che già parliamo del 700, nel 1870, ripeto, hanno costituito una società proprio dove la distillazione è diventata ufficiale. Prima chiaramente si distillava con un piccolo alambicco, era sempre una cosa di contrabbando fra virgolette, perché allora c'era l'impero asburgico che controllava molto. Ecco, la fortuna diciamo nostra è che un'azienda, come dicevo, abbastanza di notevole grandezza, e abbiamo distillato anche nei periodi bellici, in quanto veniva occupata dai tedeschi, era occupata, c'era la motorizzazione tedesca, e abbiamo continuato a distillare anche nei momenti diciamo difficili. La fortuna volle anche che uno dei nostri prozii era il direttore generale delle ferrovie dell'impero asburgico, e perciò grazie a questo siamo diventati fornitori ufficiali della casa asburgica. La tecnica è di fondamentale importanza in questo mestiere. Tecnica dell'alambicco prima, tecnologia dopo. La tradizione per noi è proprio il sistema distillatorio, questo alambicco discontinuo, che chiaramente è un alambicco costosissimo per l'acquisizione, molto lento, perciò si distilla chiaramente in quantità minore, e poi è praticamente un distillatore che ha bisogno di una materia prima eccezionale, fresca, pulitissima, perché è l'unico alambicco che riesce a trasportare tutti i profumi e gli aromi insiti nella grappa, dando un prodotto, chiaramente anche lì andiamo indietro con gli anni, abbiamo creato l'altro prodotto già nel 56, nel Bolaffi delle grappe. Veronelli indicava Bertagnolli come l'altra grappa. E nella storia della distilleria Bertagnolli, i numerosi momenti di svolta sono spesso legati a innovazioni tecnologiche. Una di queste svolte, forse la più significativa, risale al 1990. Chiaramente abbiamo creato un po' di subbuglio nel mondo della distillazione, parlo discontinua per l'alta qualità, in quanto abbiamo introdotto il computer in distilleria. È stato un fatto epocale, dove abbiamo praticamente spinto un po' di critiche verso di noi, mentre invece è stato proprio, ripeto, un passaggio epocale, perché si entra scientificamente nel distillato, perciò è tutto in automatico. Chiaramente è sempre l'enologo, il distillatore, che controlla e dà gli input per il momento di taglio in base alla qualità della materia prima, alla gradazione della materia prima, e questo tanto che adesso oggi quasi tutti hanno preso questo sistema. Le innovazioni tecnologiche servono a gestire una materia complessa, fatta di decine di aromi diversi, da tenere in equilibrio per raggiungere l'obiettivo fondamentale, un buon prodotto. L'impostazione è importante, perché chiaramente mai sentirsi arrivati, mai, e grazie, ripeto, proprio alla più grande scuola che abbiamo a livello europeo, dell'Istituto Agrario di San Michele, che chiaramente ci stimola tutte delle prove concrete e particolari, sia nella tecnica dell'alambicco, ma sia nella conservazione e mantenimento della materia prima, perché anche questo è importantissimo per riuscire a prendere tutti questi aromi che sappiamo nel settore merceologico. E la grappa contiene circa 300 aromi diversi dall'altro. Se questi sono in armonia, abbiamo ottenuto un ottimo prodotto. Se invece c'è qualche aroma che prevale sull'altro, abbiamo una distonia, e quindi abbiamo qualche problemino per la grappa. I mercati della distilleria Bertagnolli, locali fino agli anni 50 e poi via via estesi all'Italia, all'Europa, agli Stati Uniti e al Canada, hanno toccato anche aree dell'Oriente, dove il fenomeno Made in Italy è molto sentito. E la crescita all'estero si sente anche sul fatturato. Il fatturato sono 10 milioni di euro, il fatturato, che chiaramente adesso che siamo in crescita verso l'estero, siamo per ora un 12% all'estero, e il resto in Italia ancora. Siamo 18 persone perché è un'azienda molto dinamica, molto moderna, computerizzata sia nella produzione, nella distilleria vera e propria dove trasformiamo la vinaccia in grappa, e sia anche nei magazzini, ricevimento merci e consegna merci. Siamo stati in Italia i primi ad introdurre la grappa, a metterla nelle piccole botti francesi, nei barrique. E adesso è un mercato che si sta, soprattutto all'estero, si sta crescendo in maniera molto buona, siamo molto contenti e positivi. La grappa è un prodotto di nicchia, soprattutto in un'ottica internazionale, e bisogna cercare punti di forza per competere sui mercati anche esteri, con prodotti made in Italy. Chiaramente, ecco, diciamo di base che ormai la qualità si è innalzata su tutte le aziende. E io rientro sempre su questa tipologia di distillazione discontinua a bagnomaria, dove praticamente il vapore non è diretto ma resta all'esterno. Abbiamo dei prodotti che oggi il mercato si stanno premiando, in modo particolare, soprattutto all'estero. Sono il presidente dell'Istituto Tutela Grappa del Trentino, che è il primo e l'unico istituto che garantisce la qualità del prodotto al consumatore finale, previa una commissione sia dal punto di vista organolettico, che fa una base in alto per un punteggio, sia dal punto di vista chimico, che ci siamo dati uno statuto con gli elementi chimici molto più bassi del nazionale. Perciò noi dobbiamo distillare entro dicembre, perché solo entro dicembre se parliamo di grappa trentina, dopo invece non possiamo più metterla in bottiglia noi con nome Trentino. E abbiamo anche delle sostanze, il 2-butanolo, che è una sostanza, c'è cioè un parametro importante che si riferisce alla materia prima, che man mano che la materia prima, se noi la insiliamo prima di distillarla, man mano che aumentano i giorni, aumenta questa sostanza che chiaramente comporta una meno leggerezza e una meno digeribilità del prodotto. Le caratteristiche del prodotto sono anche quelle che permettono di affrontare la crisi, quella dettata dal ciclo economico, ma anche quella strutturale. La crisi è un dato di fatto, il valore globale si sta abbassando, diciamo, del numero di bottiglie vendute in Italia e anche all'estero. C'è una cultura maggiore del consumatore. Il consumatore comincia a fare selezione dei vari prodotti e questo è un bene, perché chiaramente si cerca di spronare tutti i produttori a migliorarsi, perché se miglioriamo riusciamo, perché ricordiamo rispetto a tutti gli altri prodotti, poi la vodka, poi il gin, la grappa è di super nicchia, perché sono circa 40 milioni contro i miliardi di bottiglie della vodka o degli altri prodotti, whisky, cognac nel mondo. Perciò resta sempre un prodotto fra virgolette difficile, che solo con questa qualità nuova, fresca, pulita e facile che riusciamo a captare mercati nuovi, perché anche come ripetevo prima, l'alambicco è molto costoso, la lavorazione è molto costosa e molto lenta, usciamo con dei prezzi che non possiamo combattere le grandi distillerie con i continui, che chiaramente hanno dei costi molto molto molto minori, e chiaramente questo dà in atto una risposta per il consumatore più positiva. Vengono a cercare certi prodotti. L'immagine della grappa e del consumatore tipo è legata al mondo agricolo, maschile, in qualche modo antico. Un'immagine sempre meno rispondente alla realtà e a quei cambiamenti avvenuti nel tempo. Con attenzione anche alle donne. Ecco, la grappa, diciamo, è nata innanzitutto come il vino, fra virgolette, andiamo nell'Ottocento, come corroborante per le forze armate, e chiaramente era per dare una carica positiva in certi momenti. Poi si è passato a un bere prettamente mattutino, perché chiaramente è l'ambiente contadino dove ci si alzava alle 4 e perciò c'era un lavoro. E da allora adesso sono stati fatti dei passi giganteschi, sia chiaramente, diciamo, sullo studio della qualità, sulla freschezza del prodotto, e anche se c'è stato uno spostamento proprio del consumatore. Con le grappe pesanti e forti sono andate a sparire, sono presentate delle grappe fatte bene, proprio fresche, e anche il consumatore si è spostato da prettamente maschile anche a una parte femminile. E questo per noi, chiaramente siamo sempre attenti, una delle grandi colpe anche nostra di non fare troppa cultura, perché adesso non siamo ancora in tanti, da fare una cultura proprio verso il consumatore. Anche nel settore della grappa, come in quello del vino, alla contrazione dei consumi nazionali si è affiancata, per fortuna, una maggiore attenzione dei compratori stranieri verso i prodotti italiani. Ma intercettare i consumatori internazionali non è facile. È uno sforzo lungo e faticoso, ma i numeri iniziano ad essere interessanti. Parliamo di cultura e portiamo questo prodotto spiegando come va bevuto, perché è la prima cosa. E vedo i mercati, noi adesso abbiamo aperto tanti mercati dall'India, Giappone, Cina, che chiaramente sono mercati che stanno crescendo e va timidamente, diciamo sempre timidamente, si avvicinano alla grappa e vanno sul mercato chiaramente medio-alto, anche di segmento, che è quello che fa piacere a noi, che chiaramente fa conoscere questo prodotto. È l'unico prodotto che praticamente tu distilli la vinaccia, esce il prodotto e puoi berlo, mentre gli altri o gli aggiungi gli aroma o gli aggiungi qualcosa, mentre la grappa nel bene e nel male esce tale quale. Beppe Bertagnolli è anche presidente dell'Istituto di Tutela Grappa del Trentino. Livia è vicepresidente dell'Associazione Donne della Grappa. Fare sistema tra produttori del settore è una necessità per affrontare meglio il mercato, ma anche per progredire e salvaguardare l'immagine dei prodotti trentini. Uno zio è stato il primo presidente, fondatore e cofondatore dell'Istituto Tutela Grappa del Trentino. Reputo io personalmente una cosa importante, per me è stato fra virgolette di estrema facilità, perché abbiamo fatto una coesione con tutti i distillatori di una famiglia unita, indipendentemente che ognuno ha il proprio mercato, uno sarà più grosso o piccolo dell'altro, però ci troviamo spessissimo, un'adesione totale di tutti proprio i produttori. Oltretutto siamo molto uniti e stimoliamo sempre il ritorno da capo verso un istituto agrario di San Michele, dove facciamo determinate prove, dove abbiamo la disponibilità di un centinaio di chimici bravissimi che analizzano proprio le componenti aromatiche e ci dicono come dobbiamo distillare, come dobbiamo conservare le vinacce, e questi sono degli aiuti importanti che le ricepiamo e ci mettiamo in discussione ogni volta. Un elemento oggi imprescindibile per ogni azienda che voglia definirsi moderna e proiettata nel futuro è quello ambientale. Un tema ancor più forte per chi lavora e produce in un territorio dove anche il turismo è una risorsa importante. Diminuire l'impatto sull'ambiente è una scelta quasi obbligata. Ecco, noi andiamo dietro ancora 25 anni fa, abbiamo fatto una scelta totalmente verde di portare tutta la materia prima, le vinacce, a un depuratore, cioè di non usufruire noi, perché dopo chiaramente con i fumi si va a inquinare. Poi il Trentino rispetto a tutto il nazionale abbiamo delle leggi molto molto più restrittive, e io come altre aziende portiamo tutte le acque reflue che noi con questi bagnomaria abbiamo circa noi 600-700 ettolitri al giorno di acqua da depurare, che portiamo ai depuratori sotto controllo, chiaramente da noi c'è lo SPA che ci controlla la protezione ambiente, in maniera tale che noi non buttiamo né in sottosuolo né in aria, perché siamo stata la prima azienda anche a usufruire il metano, perché prima si usavano chiaramente petrolio pesante che chiaramente costa meno, proprio a non voler inquinare, a voler mantenere anche in mezzo alla campagna. Noi siamo in Trentino, poi diciamo il 70% è montagna, il resto un po' di campagna, da non inquinarlo, perché è un territorio da valorizzare proprio per il turismo e da mantenere intatto. Adesso stiamo studiando per il fatto proprio dell'energia elettrica, perché adesso anche qua c'è un'evoluzione folle dai pannelli fotovoltaici, che chiaramente fino adesso recuperano solo il 15%, adesso stanno uscendo quelli del 75%. Infatti stiamo appena, perché anche lì chiaramente dipende dalla grande industria, permettere che escano questi prodotti che sono già pronti sul mercato, appena pronti chiaramente non li applichiamo, perché ci interessa molto il discorso ecologico totale. Ed è invece al di là dei confini nazionali che si sta preparando il futuro della distilleria Bertagnolli, con i giovani della famiglia. Abbiamo già tutti i giovani che sono all'estero, perché chiaramente oggi bisogna crearsi anche una cultura di lingue, perché bisogna conoscere un po', e stanno preparandosi facendo delle esperienze alternative in altre aziende per dopo poter portare del know-how positivo per far crescere o quantomeno mantenere l'azienda. C'è già una quinta generazione che aspetta proprio di poter entrare. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.